Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Dopo gli aumenti record di gas e soprattutto della luce registrati lo scorso trimestre, le bollette diventano ancora leggermente più salate. L'autorità per l'energia elettrica e il gas ha comunicato il 1 luglio l'ulteriore adeguamento dello 0,2% per l'elettricità e un aumento del 2,6% per le tariffe del gas. Nuovi aumenti che si aggiungono, come dicevamo, a quelli già molto consistenti che erano stati fissati con la adeguamento di aprile e che avevano fatto molto clamore perché, lo ricorderete, ne avevamo parlato a lungo, c'era stato un balzo del 10% della tariffa energetica, un aumento così alto al punto che l'autorità del gas e l'energia appunto lo aveva suddiviso in due, una prima parte in aprile e una seconda parte in maggio. Oggi vogliamo rifare il punto della situazione ricostruendo il percorso che ci ha portati a queste tariffe, tratteggiando alcune ipotesi sul loro andamento anche nel prossimo trimestre, mettendo anche a confronto le offerte di gestori e distributori. Che carico hanno in bolletta in questo momento le famiglie italiane che sono già fiaccate da una crisi molto pesante, che stanno già modificando su molti aspetti le loro abitudini di spesa e di consumo? Come hanno cambiato le abitudini nelle proprie abitazioni per alleggerire il peso della bolletta? Oggi ne parliamo appunto con i nostri ospiti. In primo luogo vi presento e saluto l'ingegner Massimo Ricci, direttore mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Ingegnere, buongiorno, ben trovato, ben ritornato a Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Eccoci qua. Grazie. Letizia Venturini, direttore generale di My Best Option Italia, che è un comparatore di tariffe e offerte commerciali molto presente soprattutto su questo settore, non dico specializzato, ma so che la dottoressa Venturini è molto preparata su questo campo. Buongiorno, intanto ben trovata anche lei. Buongiorno a tutti. Nella seconda parte della trasmissione faremo anche un'altra cosa per aiutare gli ascoltatori a controllare i consumi dovuti all'utilizzo intenso dei condizionatori d'aria in questa stagione. Abbiamo invitato Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato, lo sentiremo appunto nella seconda parte della trasmissione, ci darà il vademecum dell'organizzazione degli artigiani sull'acquisto oculato dell'impianto di condizionamento della nostra casa, se l'acquisto non lo abbiamo fatto. Per chi lo ha fatto di recente magari deve anche imparare ad usarlo bene per non avere delle sorprese in bolletta clamorose, per cui ci darà tutte le indicazioni tecniche del caso. Allora, per i vostri interventi, lo sapete bene, potete utilizzare i canali che conoscete bene. Il primo è il numero verde per gli interventi in diretta, 800 24 00 24. Ci potete anche scrivere dei messaggi al 349 238 6666. Ci potete scrivere delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24 e potete andare anche a divertirvi un po' sul nostro profilo Facebook stamattina. Ho la patata in bocca, come si dice in gergo, salvadanaio-radio24. C'è un ascoltatore che ha già scritto: Dio benedica la climatizzazione. Non è proprio esattamente una sua invenzione, però ecco, magari ha aiutato un po'. Allora, guida al risparmio in bolletta dopo una primavera di rincari, il tema di stamattina. Diamo un'occhiata alla borsa. La borsa oggi è prevalentemente negativa sui principali destini, in questo momento con l'unica eccezione di Francoforte, che segna più 0,06%. C'è stata un'asta di titoli a 10 anni, lo raccontavamo prima nel giornale radio, e i Bund tedeschi hanno toccato un nuovo minimo storico in termini di rendimento all'1,31%. Pensate, i nostri BTP valgono all'incirca il 6% come rendimento, i Bund tedeschi l'1,31%. Insomma, proprio non c'è competizione, anche se bisogna anche vedere se vale la pena indebitarsi per 10 anni, investire per 10 anni per ottenere un rendimento di questo tipo. Le altre borse: Parigi meno 0,6%, Francoforte, lo dicevo, appena positiva, Londra meno 0,40%, Milano meno 0,64% sul FTSE MIB. Bene le banche oggi a Piazza Affari, nonostante il nostro spread sia un po' in ribasso rispetto a ieri, ma comunque sempre piuttosto alto, siamo a 454 punti base. Unicredit è il miglior titolo, segna più 1,61%, ieri è stato varato un super piano di riorganizzazione del gruppo, Intesa più 1,18%, in pregiro più 1,12%, nel Green Power più 0,43%. I peggiori titoli in media, 7 scivolone del 4,66%, TOTS -4,55, oggi scende tutta la galassia Fiat, gli operatori dicono perché i titoli subiscono le preoccupazioni americane, c'è un grande caldo anche negli Stati Uniti, visto che oggi parleremo un po' anche di quello, grande siccità, questo compromette probabilmente i raccolti e quindi anche gli investimenti degli agricoltori in nuovi trattori, quelli venduti dalla controllata americana Case New Holland, quindi c'è questa riflessione da parte del mercato stamattina. Ieri però la galassia Fiat è andata molto bene, probabilmente oggi qualche operatore incassa anche quanto ha guadagnato nella seduta precedente. Euro su dollaro a 1,22,76. Per la borsa è tutto, la borsa la lasciamo, adesso andiamo al tema di oggi. Come vi dicevo, bollette più care per i prossimi mesi per le famiglie italiane. Abbiamo avuto un nuovo ritocco verso l'alto per le tariffe di luce e gas, nel ritocco stabilito come sempre dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, l'elettricità più 0,2%, gas più 2,6%, ma soprattutto, lo ricordiamo, avevamo avuto un aumento molto più consistente per l'elettricità lo scorso trimestre, era stato stabilito e comunicato appunto il 1 aprile. Ingegner Ricci, una bella batosta, lo ricordiamo, appunto ne avevamo anche tanto parlato sia in radio, era stato un aumento che aveva fatto molto clamore ed era stato talmente tanto consistente che l'autorità l'aveva dovuto suddividere in due. Oggi stiamo andando, si può dire, verso una situazione di maggior stabilità. Secondo lei cosa dobbiamo ragionevolmente prevedere? Allora, intanto i numeri li ha correttamente ricordati lei, quindi c'è stato un grosso aumento, diciamo intorno al 10% complessivo a partire dal mese di aprile, e diciamo questo aumento di fatto era legato in parte, circa la metà, un po' più della metà, ai prezzi del petrolio e soprattutto del gas. Un'altra cosa l'ha ricordata lei poco fa, il cambio euro-dollaro, che non è particolarmente forte, quindi anche questo chiaramente non ci avvantaggia, essendo tutte le transazioni legate al petrolio espresse in dollari. E l'altra metà di fatto era legata a, diciamo, il grosso incremento delle rinnovabili, di cui anche molto si è discusso, perché chiaramente la cui incentivazione viene finanziata attraverso la componente, cosiddetta componente A3 nelle bollette. Già da questo aggiornamento, l'ultimo, quello di giugno, a partire dal mese di luglio, avete visto che lo 0,2% significa una sostanziale stabilità, quindi di fatto non ci sono state ragioni per aumenti ulteriori, e diciamo questo dovrebbe essere un pochino un trend che dovrebbe mantenersi anche per il futuro, fatti i debiti scongiuri, soprattutto per quello che riguarda i prezzi del petrolio e in particolare del gas, magari poi ci torno un attimo sui prezzi del gas. Chiaramente tutto è sottoposto a un'incognita legata a quale sarà il futuro delle rinnovabili, insomma anche i decreti che sono stati approvati in questi giorni che diciamo stiamo analizzando per valutare se diciamo consentiranno di mantenere questo livello oppure richiederanno un ulteriore incremento per coprirne i costi. Effettivamente la vostra decisione di spezzettare in due l'aumento di aprile era andata proprio in questa direzione, quella di sollevare l'attenzione del governo su questa problematica, su questo impatto sulla bolletta della famiglia, del costo delle rinnovabili, se non ricordo male. Ingegner Ricci, no? Ecco, certo, allora questi aumenti come si stanno traducendo nel portafoglio delle famiglie? Perché so che l'autorità è molto attenta anche a fare queste quantificazioni. Ma allora, attualmente il prezzo complessivo stimato utente tipo, diciamo, per energia elettrica è di circa 500 euro all'anno, mentre per il gas è di 1260, quindi il gas chiaramente ha un valore più elevato e quindi ha un impatto più elevato sul cosiddetto consumo tipo. Diciamo, l'autorità, oltre ad un'estrema attenzione negli aggiornamenti e nella correttezza delle valutazioni sui prezzi, chiaramente parliamo sempre dei prezzi del servizio di tutela, lavora poi per consentire anche opportunità nel mercato libero ai clienti finali, che quindi possono chiaramente cambiare fornitore e cercare con questo un risparmio oltre che un servizio di tipo diverso. C'è poi invece per le famiglie disagiate che ne hanno bisogno il bonus, che è stato incrementato quest'anno, ricordo, per l'energia elettrica del 12% e per il gas del 20%, che quindi va ad aiutare le famiglie che hanno difficoltà o che hanno diciamo persone affette da malattie e che fanno, come dire, un utilizzo massiccio di strumentazione in casa necessaria proprio per assistere magari persone che hanno particolari necessità. Tra l'altro lei ha citato poco fa, Ingegner Ricci, la questione legata alle famiglie che utilizzano il servizio di maggior tutela, che è praticamente quell'ambito tariffario applicato ai consumatori che non scelgono di adottare invece le offerte del mercato libero, no? C'è ancora questo problema di scambio scarsa mobilità da parte dei consumatori. A loro accettano, va bene la bolletta che arriva senza interrogarsi su quale magari migliore offerta potrebbe esserci sul mercato e quali migliori condizioni potrebbero esserci se si cambiasse operatore, perché abbiamo parlato molte volte anche di questo aspetto, essendoci anche un problema legato ad una lettura di bolletta un po' operazione ardita per noi comuni mortali, e quindi qualche volta si fa anche fatica, cioè un vestito magari io faccio più facilità, riesco a fare un paragone di abbigliamento in due diversi negozi, no? Sulla bolletta fare una comparazione di offerte, poi qui entreremo anche nel merito più dettagliato con il comparatore, faccio un po' più fatica, per cui questo ha reso molte famiglie più restie nella individuazione magari di un altro operatore a cui rivolgersi. C'è ancora questa scarsa mobilità? Ma allora, intanto dobbiamo dire che questa apparente scarsa mobilità in realtà è allineata con la best practice europea, anche nei paesi come l'Inghilterra che sono più avanzati rispetto a noi, rispetto alla liberalizzazione. L'autorità però è diciamo conscia e sta investendo molto in cercando di, il nostro presidente ha avuto modo di richiamare con un nuovo termine, di capacitare il consumatore, nel senso di mettere il consumatore in grado di scegliere. Questo è un po' un obiettivo che questa autorità si è data nei prossimi anni, e una parte di questo obiettivo sicuramente comprende anche un'analisi, un'eventuale revisione e semplificazione ulteriore delle bollette, in modo che sia più chiaro per i consumatori, diciamo, quanto spendono e come eventualmente nel mercato libero trovare delle offerte che possano, ripeto, oltre che dare loro un servizio diverso in termini di qualità, in termini di altri parametri, anche una potenziale convenienza sul prezzo, quindi certamente strumenti di comparazione delle offerte vanno in questa direzione. Allora, tra l'altro, intanto magari ingegner Ricci, questo è un ambito che non è di sua competenza, io ci provo a fargliela la domanda, poi valuterà lei in che maniera rispondermi. Ci sono molti ascoltatori che lamentano, e questo glielo posso confermare perché è stato un problema del quale ho discusso molto con mia mamma anche nei giorni passati, la questione legata alle aziende che fanno le letture presunte dei consumi delle abitazioni, no? Ma insomma, questo è un atteggiamento che dobbiamo subire passivamente oppure ci possiamo arrabbiare? Per quello che riguarda la luce, adesso ci sono i contatori a distanza che quindi fanno appunto la rilevazione automatica a distanza, non c'è più alcun problema. Per il gas invece qua viviamo ancora una condizione di forte difficoltà, e ogni volta arrivano delle bollette salatissime perché le aziende fanno questi conteggi, queste rilevazioni presunte che pesano non poco. Dobbiamo ogni volta chiamare l'azienda e rifare da zero tutta la pratica? Ma allora, diciamo, come ha detto correttamente lei, credo che il problema riguardi prevalentemente il gas, dove l'installazione dei contatori elettronici è in corso, ma di fatto richiederà diversi anni prima di essere completata. Quindi lo strumento tecnico che ha risolto il problema nell'energia elettrica, di fatto con una lettura automatica a distanza su base mensile, quindi di fatto garantisce che i consumi siano quelli molto vicini a quelli reali, nel gas ancora non c'è. Nel gas si è cercato di mettere in piedi tutta una serie di strumenti, per esempio quello dell'autolettura, con cui il cliente finale può, diciamo, comunicare al venditore la propria lettura e consentire al venditore di fatturare il più possibile i consumi reali. Chiaramente, diciamo, in assenza di questa comunicazione il venditore può fatturare con quantitativi in acconto. Chiaramente, se questi quantitativi si discostano molto dal consumo reale, il consumatore ha diritto di lamentarsi. Esattamente, deve alzare il telefono, recarsi direttamente agli sportelli e pretendere la lettura corretta. Ingegner Ricci, so che tra qualche minuto la dobbiamo lasciare. Prima ci aveva anticipato che voleva precisare qualcosa relativamente alle future bollette del gas, legate naturalmente all'andamento anche delle quotazioni del petrolio, che sono quotazioni comunque abbastanza virtuose in questo periodo, perché siamo sugli 80-85 dollari. Ci dobbiamo aspettare una riduzione, ritorneremo su livelli un po' più sostenibili per le famiglie? Sì, la speranza c'è, nel senso che ci sono due elementi che stanno incidendo. Da un lato, quello che dice lei, sicuramente che il prezzo del gas, soprattutto quello dei contratti a lungo termine, che stanno un pochino dietro le determinazioni delle autorità, è ancora molto legato al prezzo del petrolio, in particolare al prezzo del passato. Quindi il fatto che nei mesi scorsi sia ancora cresciuto più o meno del 2% per ogni aggiornamento, legato al fatto che scontava la crescita del petrolio dei mesi scorsi. Probabilmente dal prossimo trimestre, se non ci saranno stravolgimenti nell'andamento del prezzo del petrolio, si potrebbe assistere quantomeno a una certa stabilizzazione. A questo si aggiunge un nuovo meccanismo di calcolo che l'autorità ha introdotto, introducendo un'incitazione anche ai prezzi, cosiddetti prezzi spot del gas, cioè quelli dei mercati giornalieri, che hanno negli ultimi due anni soprattutto un andamento in riduzione rispetto ai prezzi legati al prezzo del petrolio, e questo potrebbe ulteriormente aiutare ad avere quantomeno un contenimento, ma possibilmente anche una riduzione. Vedremo un po', dipende, abbiamo ancora 2 mesi il prezzo del petrolio da guardare, e non dimentichiamoci mai che noi guardiamo il prezzo del petrolio in dollari, ma poi conta anche il cambio dollaro-euro, perché poi i prezzi sono in euro. Eh sì, ma perché sa, quando arriva poi i parametri rilevanti. Quando arrivano le cattive notizie, arrivano sempre tutte quante insieme, non è che ne arriva una alla volta, non ci dilazionano nulla. Ingegner Ricci, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie. Ci risentiamo praticamente dunque luglio, agosto, settembre, ottobre, quindi il 1 ottobre con la prossima revisione tariffaria. Buona giornata. Letizia Venturini, My Best Option, un biglietto da visita di questo comparatore di offerte e di tariffe anche, lo possiamo fare, perché sono strumenti nuovi che sicuramente i consumatori hanno imparato a utilizzare sempre di più in tempi recenti. Il mercato molto di recente si è popolato appunto di questi comparatori. C'è uno strumento, è un consumatore consapevole quello che viene a cercare un tipo di strumento di questo tipo? Che tipo di sensazione? Intanto buongiorno a tutti, e volevo ringraziare Deborah Rosciani per avermi nuovamente invitato a parlare di questi temi che sono tanto cari alle famiglie italiane. Di sicuro il cliente sta diventando sempre più consapevole, e sta diventando sempre più consapevole soprattutto relativamente al tema dell'energia elettrica. Rispetto allo scorso anno, My Best Option è nata proprio lo scorso anno, a gennaio del 2011, vediamo che c'è un incremento di persone che cercano risparmio nella bolletta dell'energia e del gas. Quindi anche rispetto al tema di cui accennavate prima, io vedo un cambiamento, probabilmente legato anche alle tante offerte concorrenziali che ci sono da parte degli operatori. Benissimo, allora poi vi daremo qualche suggerimento su come si possano usare al meglio questi comparatori appunto tariffari, anche perché, dicevo prima, magari abbiamo tutte le migliori intenzioni per poter andare a visionare questi nuovi strumenti che abbiamo a disposizione, poi però quando la bolletta è incomprensibile facciamo anche fatica, perché è chiaro che magari l'operatore ti dice ti pratichiamo un'offerta strabiliante, poi bisogna andare a vedere tutte le voci effettivamente sulle quali questa offerta viene praticata. Detto questo, visto che siamo in piena estate, il caldo bastona, abbiamo avuto Minos e tutti gli altri appunto slanci meteorologici che hanno portato un gran caldo nel nostro paese, questo ci ha portato probabilmente anche ad un utilizzo molto forte del condizionatore. Allora, per evitare sorprese in bolletta dovute al condizionatore, ma anche alle nostre abitudini di consumo magari non corrette, cosa possiamo fare? mybestoption.it, Letizia Venturini. Tanto per cominciare, che cosa significa fare una comparazione di tariffe? Perché anche molti ascoltatori, lo dicevamo prima a microfoni spenti, forse non hanno una chiara idea di che cosa voglia dire. Fare una comparazione delle tariffe esistenti sul mercato vuol dire quasi automaticamente acquisire degli strumenti per risparmiare sulla bolletta, sulle bollette di gas e di luce. Il nostro sito da questo punto di vista è estremamente semplice, perché compara, quindi confronta tutte le tariffe, sia da un punto di vista delle caratteristiche delle tariffe che da un punto di vista del prezzo. Quindi anche per persone che normalmente, non hanno informazioni, non si sono mai dedicate ore e ore a comprendere le caratteristiche delle offerte disponibili sul mercato, è abbastanza semplice comprendere cosa si può avere e a quale prezzo. Quindi io dico sempre che il miglior modo per risparmiare, il primo modo per risparmiare è conoscere le offerte, e da questo punto di vista My Best Option è estremamente efficace. La seconda cosa per risparmiare è scegliere la tariffa più adatta al proprio stile di consumo. Noi non ce ne rendiamo conto, ma di fatto utilizziamo costantemente durante tutta la giornata, oppure nei momenti in cui siamo a casa, tanti dispositivi elettronici, tanti elettrodomestici, quindi il consumo aumenta sempre di più. E non facciamo caso, magari come facevamo tanto tempo fa, un po' di tempo fa, facciamo caso ad esempio a come utilizzavamo il cellulare, no? Facevamo la distinzione tra il telefonare di giorno o telefonare di sera. Con l'energia elettrica non facciamo attenzione a questo, e invece sarebbe opportuno farlo perché consentirebbe di risparmiare. Quindi capire il proprio stile di consumo e capire l'offerta che è adeguata è il secondo passo per risparmiare. My Best Option aiuta anche in questo, perché lasciando il numero di telefono nel nostro sito si verrà prontamente richiamati da un operatore che consiglierà, prima di tutto spiegherà le tariffe che sono a disposizione relativamente appunto allo stile di consumo, e quindi consiglierà la tariffa più adatta e proporrà anche l'attivazione della nuova tariffa. Cambiare operatore è davvero estremamente veloce, basta avere a disposizione la bolletta sia dell'elettricità che del gas, dare i dati che sono presenti proprio sulla bolletta all'operatore e si può procedere in poco tempo. È davvero così facile, dottoressa Venturini? Perché per la verità in passato, quando ci siamo occupati delle nuove opportunità del mercato libero, molti ascoltatori lamentavano il fatto che chiaramente il nuovo operatore con grande facilità e grande velocità cattura il nuovo cliente, il problema è il vecchio operatore che lascia andar via il cliente appunto che vuole abbandonare la compagnia, il distributore, la società. Adesso i meccanismi quali sono? Beh, la prima sottoscrizione, quella che viene appunto attraverso il nostro sito, è velocissima, è una questione di qualche minuto. Dopodiché tutta la pratica viene passata all'operatore di appartenenza. In effetti ci sono stati casi in cui questo passaggio è stato rallentato, ma oramai diciamo la prassi e quindi lo spostamento sta aiutando a velocizzare questo processo, e d'altronde è obbligatorio per gli operatori effettuare la cosiddetta portabilità. L'ho fatta anch'io e personalmente ho avuto un'esperienza estremamente positiva. E nel giro credo di un mese, se non ricordo male, ho avuto il passaggio senza fare niente, ho ricevuto semplicemente una mail in cui l'attivazione che avevo effettuato ovviamente attraverso il mio sito era stata diciamo recepita ed era stata poi effettuata. Lei tutto qua. Tanto per raccontare sempre la sua esperienza, entrare un po' a farci i fatti suoi naturalmente, ma così almeno concretizziamo anche i nostri discorsi, perché sembra sempre che noi non consumiamo, che facciamo dei grandi per quello che mi riguarda, che faccio dei grandi investimenti in borsa, chissà che cosa guadagno, invece siamo persone normali che vanno a fare la spesa e consumano nelle proprie abitazioni come tutti quanti. Che tipo di risparmio ha trovato da questo passaggio? Che cosa cercava e che tipo di risparmio è stato fatto naturalmente? Allora dipende molto da chiaramente dall'utilizzo e da quanti siamo in famiglia. Mediamente una famiglia italiana può risparmiare intorno ai 50 euro all'anno sulla bolletta dell'elettricità, e anche qualcosa di più, intorno ai 70 sulla bolletta del gas. Quindi intanto non ci aspettiamo miracoli se ci aspettiamo questo, perché comunque poi Non ci aspettiamo. Qual è la componente sulla quale le compagnie possono agire? È la cosiddetta componente energia. Esatto, quindi quando parliamo dei rincari, e si parla sempre dei rincari, ne abbiamo parlato poco fa, si parla sempre di rincari relativi alla componente energia, quindi soltanto una quota parte del prezzo che è in bolletta. Quel rincaro evidentemente poi incide sul prezzo finale che è in bolletta, ma il rincaro finale dipende molto dalle politiche commerciali che sono adottate dall'operatore. Però dicevo che quello che è altrettanto importante è stare attenti al proprio consumo e stare sempre informati su come cambiano le offerte disponibili. Ad esempio, in questo momento principalmente sul mercato ci sono delle tariffe a consumo. Ecco, quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che consumo X, pago X, cioè pago in base a quanto io consumo. Quindi non ci sarebbe più nessun problema di lettura presunta o... Beh, la lettura presunta, come dicevamo prima, dipende molto dal fatto di avere un contatore elettronico oppure un contatore, diciamo... Abbiamo sollevato diciamo vecchio, un vespaio quindi... di messaggi su questo tema, peraltro, poi gliene leggo qualcuno. Sì. Però oltre alla tariffa consumo c'è una tariffa che consente di spendere un prezzo stabilito per ogni mese, quindi è come un taglio predefinito. È un'opportunità di risparmio, ma se si consuma all'interno del tetto massimo di consumo previsto da quella tariffa, altrimenti se si sfora e non si controlla c'è il rischio diciamo di pagare molto di più. Quindi come dicevo prima, controllo della spesa, andiamo a vedere sul contatore elettronico quanto si sta consumando. L'altra cosa che si può fare, e questo diciamo queste caratteristiche sono estremamente ben indicate all'interno del sito di comparazione, quindi è molto semplice anche per chi queste cose non le conosce. Tante volte mi capita di parlare delle tariffe, di come funzionano, e mi rendo conto che le persone non sono affatto consapevoli, ad esempio del fatto che esiste una tariffa monoraria, piuttosto che una tariffa bioraria. Cosa vuol dire? Pago la stessa cifra indipendentemente dal momento e dalla giornata in cui io utilizzo l'energia elettrica, in questo caso la monoraria. La bioraria invece consente di risparmiare se consumo di più nelle fasce notturne oppure nel sabato e la domenica. Certo. Questa è un'ulteriore opportunità di risparmio, ma dipende se io sono in grado effettivamente di utilizzare la lavatrice di sera il sabato o la domenica. Certo, dobbiamo avere degli ottimi rapporti con i condomini, naturalmente con i colleghi di piano, il piano di sopra e esatto. di sotto, però insomma quello. Tant'è quando abbiamo fatto questa trasmissione, quello fu il grande problema che emerse rispetto appunto all'ingresso della bioraria. Ma tant'è che dal nostro sito emerge in modo abbastanza chiaro che i clienti che sono attivati hanno scelto la monoraria prevalentemente. Oltre l'80% dei nostri clienti hanno scelto la monoraria. Quindi diciamo questa alternativa ha relativamente funzionato fino adesso. Allora, io adesso sto cercando di capire se le domande che abbiamo scelto da parte dei nostri ascoltatori sono in linea con il tema di oggi. Per la verità c'è qualcuno che ci vuole raccontare di una riorganizzazione della propria azienda di distribuzione appunto di luce e gas della propria zona e non capisce perché questa riorganizzazione non si traduca anche in un risparmio in bolletta. Bisognerebbe conoscere esattamente le vicissitudini di quella società. Sentiamo Paolo dalla provincia di Verona se riusciamo a rispondere alla sua domanda. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah. Io volevo chiedere che fine ha fatto la fascia oraria F3 che doveva essere stabilita successivamente all'entrata in funzione dei nuovi contatori, insomma. Ecco, adesso già ci mette subito in difficoltà perché io la questione della tariffa F3 non me la ricordo, ma vedo che Letizia Venturini si vuole avventurare appunto anche nella risposta. Poi magari, siccome abbiamo anche Luca Falco, dei bruciatoristi e manutentori di Confartigianato, che anzi approfitto per salutare. Dottor Falco, buongiorno, benvenuto e bentornato, anzi. Buongiorno, dottoressa Rosciani, per me è sempre un piacere essere con voi. Grazie, grazie molte. Allora, sulla F3, Venturini? Ma la tariffa F3 è relativa ad un'altra fascia oraria, una terza fascia oraria, ma è oggettivo che esistono ben poche offerte sul mercato che riguardano anche la F3. Ce ne sono però, sono sicura che ce ne sono e sono anche indicate all'interno della nostra tabella di comparazione. Allora possiamo quindi fare invito una cosa. Sì, assolutamente l'ascoltatore a accedere al nostro sito www.mybestoption.it e sicuramente il nostro operatore sarà in grado di darle tutte le informazioni. Allora sicuramente Ricci dell'autorità del gas e dell'energia avrebbe potuto aiutarci, poi non possiamo sapere sempre tutto. Luca Falco, buongiorno. Allora, di nuovo, come raccontavo agli ascoltatori in apertura, noi l'abbiamo interpellato perché volevamo che ci desse tutti i suggerimenti per un utilizzo assolutamente corretto del condizionatore, non modello ghiacciaia in estate in casa, perché oltre al fatto che si usa male, che ci fa anche ammalare perché bisogna anche sopportarla, l'aria condizionata io per esempio non la sopporto molto, ma è un dolore che poi arriva in bolletta, anche se oggi chiaramente gli impianti che si installano sono molto moderni, sicuramente sono predisposti anche per un utilizzo assolutamente all'insegna del anche risparmio energetico, no? È così, sì. Falco? Allora, è quasi un argomento da essere benessere, quindi dal programma della fascia prima. Sì, ma Falco, conoscete il palinsesto. Perché l'aria condizionata è un sistema per climatizzare gli ambienti delle nostre abitazioni e permetterci di vivere meglio. Falco, questo ascolti, quando... noi la sentiamo malissimo, non è proprio un collegamento pessimo. La sentiamo meglio? Proviamo. Ecco, adesso molto meglio, visto? Sì. Ok, allora, ci dica un po' come dobbiamo usare il condizionatore per bene in casa. Sì, allora, come dicevo, è importante che la climatizzazione dell'ambiente domestico sia utilizzata nel migliore dei modi, perché altrimenti dà fastidio e crea un danno. Noi stiamo bene nelle nostre abitazioni quando non sentiamo freddo e non sudiamo. Questa è una condizione un po' particolare, ovvero quando abbiamo una temperatura che non differenzia da quella esterna di non più di 3-4 gradi, ma al massimo, ovvero io ho 28 gradi fuori, dentro casa ne devo avere 25 e possibilmente un'umidità relativa al 60%. Quindi con le temperature degli ultimi giorni, Falco, siamo arrivati, non lo so, per esempio a 35 gradi nel corso della giornata, la temperatura ideale del condizionatore in casa quale deve essere? 30, no? Allora, lei immagini che se noi tenessimo 30 gradi in casa con un'umidità corretta, noi sentiremmo comunque, non avremmo quel velo di sudore addosso, quell'umidità che abbiamo addosso, e quindi staremmo comunque bene. Perché il problema qual è? Che se io entro ed esco dall'abitazione, o magari vado sul terrazzo perché ho bisogno di bagnare fiori o parlare con qualcuno, e mi prendo un coccolone, come si dice da altre parti, perché la differenza è talmente alta che poi si sta male. La cosa più brutta sono gli impianti dove viene installato il climatizzatore solo nella camera da letto piuttosto che solo nella cucina. Quindi quando io mi reco negli altri ambienti rischio di passare da ambienti caldi a ambienti molto freddi, e tanto più alta questa differenza di temperatura tanto peggio sto. Oltretutto è anche molto importante che siano installati correttamente anche come posizionamento, perché se io dico sempre che se voglio fare un dispetto a mia suocera gli installo il climatizzatore con il flusso dell'aria fredda verso il letto, noi non dovremmo mai sentire il flusso d'aria addosso, perché questo crea una corrente d'aria fredda, essendo sudati ci ammaliamo. Per cui bisogna fare proprio molta attenzione anche nel corretto dimensionamento, perché la cosa strana è che si sente sempre dire: ma non mi serve abbassare tanto la temperatura, basta togliere un po' di umidità. Ora, far cambiare di stato, ovvero trasformare il vapore acqua in acqua, viene assorbita, richiesta molta più energia che quella che serve per abbassare la temperatura. Per cui dimensionare correttamente significa proprio dimensionare per abbassare l'umidità, non per raffreddare. Per cui se io prendo un condizionatore piccolo, perché in quel momento l'offerta al supermercato, me lo installo, devo, per poter avere un abbassamento di temperatura apprezzabile, tenerlo con la ventola al massimo che giri molto velocemente, in realtà vado a creare un ambiente non sano e consumo oltretutto molta più energia elettrica. Per cui un impianto corretto, installato bene, mi permette di far funzionare la macchina alla minima velocità con un abbassamento di temperatura non troppo alto, per cui io quando entro in casa non sento freddo, ma sento fresco, sento come stare in un ambiente all'ombra leggermente ventilato. A meno che proprio per ognuno di noi il caldo non sia totalmente insopportabile. Falco, per chi non ce l'ha il condizionatore in casa e quest'anno, alla luce delle temperature che abbiamo sperimentato, ha deciso di andare a fare questo investimento, con che criterio deve fare questo, quello che è un vero e proprio investimento, perché non costano poco questi impianti, non costa poco neanche l'installazione, perché anche voi giustamente dovete farvi pagare anche per la manutenzione poi successiva. Detto questo, con che criteri dobbiamo fare l'acquisto? Scegliere quello che ci piace di più esteticamente, oppure anche un brutto impianto ma che insomma magari ci serva al meglio? Allora guardi, di solito il compromesso estetica e funzionalità per fortuna le grandi aziende l'hanno trovato. Poi l'importante è non andare a fare l'acquisto col marito, perché se si va col marito, come fossi io, quando abbiamo comprato il ferro da stiro insieme con mia moglie, ho guardato l'etichetta tecnica dietro, al posto che guardare la forma. No, è importante guardare i dati tecnici. Uno può andare al supermercato e comprare il climatizzatore, però sarebbe sempre più corretto chiamare il proprio installatore di fiducia, insieme gli si raccontano le proprie esigenze, gli si dice dove si vive nell'ambiente, quali sono gli ambienti, perché a volte con un buon installatore sa consigliare anche una macchina che, costando poco di più, magari riesce a raffrescare più ambienti e riesce ad essere più duttile, perché con i climatizzatori si riesce a cucire il vestito su misura del proprio appartamento e del proprio utilizzo. Se vado a comprare quello che è stato venduto a stock al grande magazzino, prendo quello che c'è, magari non è quello che mi serve. Considerando che poi un buon climatizzatore riesce a consumare da 350-400 watt minimo, magari al kilowatt e mezzo o ai 2 kilowatt, significa che quando funziona il minimo il consumo di 3 lampadine, 4 lampadine, quindi ho un minimo consumo, e dimensionandolo correttamente questo minimo consumo può essere quello che serve per togliermi l'umidità e farmi stare bene, magari dormire bene in una condizione di benessere. Perfetto, esatto. Falco, io devo già salutarla, ma magari con queste indicazioni ci ritorniamo in un'altra puntata più avanti, perché volevo sentire un paio di ascoltatori e poi concludere appunto con la questione legata anche all'utilizzo dei comparatori di offerte per, come dire, individuare l'operatore migliore che serva al meglio, anche con tariffe idonee, appunto, alla nostra famiglia. Volevo sentire un paio di ascoltatori. Giorgio dalla provincia di Savona, rapidissimo, buongiorno. Buongiorno, io sono in vacanza in provincia di Savona, in realtà abito a Novara. Ho la bolletta del gas di 4 mesi, praticamente su 7,61 euro di 17 metri cubi di gas finisco col pagare 42 euro in totale. Le quote fisse incidono moltissimo e sono fisse, e sono due circa uguali, e contano loro 26,70. Più del praticamente il 50%. Ci sono queste quote fisse che io le pagherei anche se non consumassi nessun metro cubo. Quindi queste quote fisse, che sono due voci circa uguali, una è quota fissa di vendita e l'altra quota fissa di rete. vengono caricate, ci sono tutti i dettagli di come sono composte e queste sono fisse. E perché uno deve pagare tutto questo indipendentemente Giorgio, perché dal in qualche consumo. Maniera no, io poi posso capire anche la frustrazione, perché il 50% secco di componente fissa sulla bolletta è inaccettabile, però il problema è che qualcuno il gas a casa sua deve portarlo, questi impianti vanno curati, va fatta una manutenzione molto accurata, appunto. Letizia Venturini, non è che poi io capisco che abbiamo un peso della tassazione ad ogni livello insostenibile, e però poi sono, come dire, servizi la cui manutenzione costa, perché non c'è niente da fare, vogliamo vivere bene e quello dobbiamo anche pagare, però mi rendo conto che il 50% è un livello molto alto. Giorgio, grazie. Roberta da Roma, rapidissima, grazie molte. Allora, buongiorno a tutti. Allora, Deborah, una sola cosa. Io ho cambiato, ho un piccolo negozio, ho cambiato attraverso queste martellanti telefonate che ti propongono... cose nuove, tariffe nuove. Bene, ero sotto maggior tutela, adesso sono passata nel mercato libero. Mi sono trovata malissimo, perché anche solo con elettricità, dopo un anno e anche di più, non ho ancora ricevuto, avendo anche io il contatore elettronico, una fatturazione. Quindi sto ancora stimando. Io mi sono arrabbiata tantissimo, perché io vi sto finanziando perché voi mi presumete 300 insomma kilowattore, quando io magari ne consumo la metà della metà. E poi un'altra cosa, non è che è vero che si passa in un mese si passa da maggior tutela infatti... verso il vostro operatore. Se io adesso volessi cambiare... No, il vostro operatore, qua non c'è nessun operatore, Roberta, no, qui c'è un comparatore di tariffe, quindi non è... Sì, no, ma... No, ma io non sto dicendo, sto dicendo che la signora dice è facilissimo, vai lì, sì, però effettivamente io quando sono passata a maggior tutela a un operatore libero, Certo, bisognerebbe vedere da chi dipende, se dal vecchio operatore che rilascia i suoi dati con grande difficoltà o il nuovo che non è efficiente. Roberta, le posso suggerire di scrivere al servizio consumatori dell'autorità dell'energia del gas, che bastona abbastanza frequentemente anche gli operatori che non fanno bene il loro lavoro, o anche per le pratiche commerciali scorrette, perché sappiamo benissimo quante telefonate ci fanno in casa per proporci appunto queste nuove offerte commerciali. Venturini dell'energia verde non riusciamo a parlare oggi, mi dispiace. Allora, ha verificato se il sito funziona correttamente? Il sito non sta funzionando correttamente, ma devo ringraziarvi a questo punto. Io sono sicura che è colpa nostra, esatto, e ci ringrazierà. Assolutamente colpa vostra, perché abbiamo già verificato, abbiamo avuto un numero molto molto molto alto, benissimo, diciamo, di accessi, e questo mi fa piacere. Rendiamo tutti più consapevoli sulle bollette. Grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, buona giornata.